Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Nel centro di Vicenza, in uno storico edificio, si trova un istituto culturale e di documentazione unico al mondo, totalmente dedicato all'agricoltura e alla civiltà contadina, come dice il nome anche al settore della vite. Si tratta infatti della biblioteca La Vigna, fondata nel 1881, con circa 10.000 volumi lasciati dal fondatore Demetrio Zaccaria e poi continuamente accresciuti fino agli oltre 52.000 attuali, alcuni dei quali anche rarissimi. Questo patrimonio italiano e veneto oggi è a rischio e mancano i fondi per sostenerlo. Cerchiamo però per prima cosa di conoscerlo meglio assieme al presidente, il dottor Mario Bagnara, e di capire perché nel Veneto, che è al primo posto in Italia nel settore del vino, non si riescono a trovare i fondi per sostenere un gioiello che proprio al mondo del vino deve molto. Ma partiamo un po' dall'inizio, diamo il benvenuto appunto al dottor Mario Bagnara. Che cos'è la Biblioteca La Vigna e come è nata? Tanto grazie, un caro saluto agli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Posso parlare con esperienza di presidenza che dura da quasi 11 anni e quindi conosco bene tutte le vicende. Naturalmente ho avuto modo anche di conoscere a suo tempo il fondatore Demetrio Zaccaria, che è morto il 27 novembre 1993. La premessa mi pare sia già stata chiara, cioè si tratta di un centro di cultura e civiltà contadina, continuato poi e precisato meglio Biblioteca Internazionale La Vigna, che è considerato il più importante a livello mondiale nel settore specifico. È dovuto all'appassionato collezionismo di un imprenditore vicentino, cioè Demetrio Zaccaria, che ha girato il mondo dopo le vicissitudini che l'ha visto protagonista come imprenditore prima della Seconda Guerra Mondiale nelle colonie italiane d'Africa. Poi ha perso tutto con l'invasione degli inglesi, ha fatto 56 mesi di prigionia e si è rilanciato successivamente come esperto di import-export in tutto il mondo, scoprendo la passione di collezionista, anzitutto di libri, soprattutto antichi, del settore enologico. E ha cominciato ad acquistare ovviamente in tutto il mondo. Poi nel 1981, a dicembre, ha creato questo centro facendo una donazione al comune di Vicenza, anche del palazzo, e poi naturalmente ha cercato di curare questa sua creatura che amava intensamente, con una generosità continua fino alla morte, lasciando poi alla morte un patrimonio anche mobiliare perché la sua biblioteca avesse un futuro garantito. Ecco, possiamo fare un esempio di cosa si trova in questa biblioteca? Beh, che tipo di volumi? La biblioteca, per dire, fra le acquisizioni che sono pervenute soprattutto dopo la morte di Demetrio Zaccaria, ma potremmo partire anche da prima, che cosa ha raccolto? Ha raccolto volumi riguardanti anzitutto la vitivinicoltura da tutti gli antiquari del mondo, perché lui era esperto naturalmente in attività commerciali con operatori soprattutto dei paesi anglofoni. Certo. Perché si era studiato bene la mentalità degli inglesi durante la prigionia, naturalmente era espertissimo anche nella comunicazione linguistica. Quindi ha girato il negativo in positivo. E poi anche a tutta la gastronomia, per cui in pratica è partito dai libri antichi in tutte le lingue, in tutte le lingue, non solamente sulle lingue principali, però anche un patrimonio che parte dalla cultura greca e soprattutto latina, per arrivare poi naturalmente anche alle pubblicazioni più recenti. Ecco, ci dobbiamo fermare per qualche minuto, torniamo tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. E negli occhi tuoi si culla il cielo quando sogniamo. Nei pensieri sei il momento in cui tutto torna. E così, se sei con me, diventa vita. Quella che senza di te è una giornata, tu sei il migliore di quello che vivo, di queste parole. Nella giungla, acqua nel deserto, sono fortunato io che ti accarezzo. Tu diadema d'oro vista da vicino, la pietra miliare lungo il mio cammino. Sale della vita, ombra sotto un gelso, faro nella notte, Dio nel mare aperto. Sangue mio che scorre dentro queste vene, parte emozionale di ogni sensazione. La luce delle stelle, nei pensieri, il punto in cui tutto splende. E così, se sei con me, diventa vita. Quella che senza di te è una giornata. Culla il cielo quando sogna. Torniamo in linea con Blu Radio Veneto e con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo scoprendo la biblioteca La Vigna di Vicenza e il suo fondatore Demetrio Zaccaria, e ne stiamo parlando con l'attuale presidente, il dottor Mario Bagnara. Abbiamo visto un po' com'è nata questa biblioteca, e voi siete anche un centro di riferimento non solo per ciò che avete, ciò che possedete, questi oltre 50.000 volumi storici, ma anche perché fate continuamente iniziative di studio e anche convegni, insomma è un centro vivo. È una biblioteca sicuramente non di sola conservazione, ma di valorizzazione, e la valorizzazione ovviamente ha molte possibilità. Noi valorizziamo molto anche la comunicazione tecnologica, informatica di avanguardia, per cui il dialogo è con il mondo intero, con gli studiosi, con gli interessati di ambito molto complesso e molto molto vasto. Porto solo un esempio: noi pubblichiamo anche una rivista trimestrale e online e qualche volta anche in edizione cartacea. L'ultimo numero riguarda la viticoltura nel ventennio fascista e la vita quotidiana durante il periodo fascista. I due collaboratori preziosi sono due professori, uno dell'Università di Santa Barbara in California, e un'altra invece è una docente dell'Università di St. Andrews della Scozia, che hanno studiato sui libri della vigna e hanno ovviamente partecipato a questa edizione con due saggi che costituiscono i due terzi della rivista pubblicata, certo, appunto per il mese di dicembre. Senta, quindi è una constatazione molto chiara, è una prova insomma della internazionalità della biblioteca. Ecco, dicevo all'inizio che la biblioteca sta vivendo qualche problema anche di sussistenza, sì, e mi chiedevo anche come mai, se si è dedicata al mondo del vino e noi siamo ai primi posti, intendo come Veneto, come Italia al primo posto nel mondo del vino, non si riescono a trovare le risorse per quello che sarebbe, bravo, un fiore all'occhiello in ogni luogo che fa vino, ecco. Certo, le preciso subito che, come ho precisato, sono qui da quasi 11 anni e questo è il cruccio fondamentale e il mio tormento anche personale da presidente, e nello stesso tempo anche la mia meraviglia che gli imprenditori del settore specifico non si siano resi conto, o meglio non si sentano responsabili di valorizzare un centro che il mondo intero ci invidia. Naturalmente ci sono stati dei soci, adesso i soci pubblici sono in difficoltà, alludo in modo particolare alla Camera di Commercio, in difficoltà anche la provincia. In questi anni ho fatto aderire la Regione del Veneto, brilla sempre per la sua presenza il Comune, che è stato ovviamente il principale sostenitore, protagonista, ecco, di questa operazione, e quindi il Comune di Vicenza continua a seguire con particolare attenzione e anche generosità, però da un punto di vista complessivo anche le vicende finanziarie del territorio hanno ovviamente determinato una difficoltà notevolissima. Ecco, ho visto che voi poi che sono anche determinate dalla riduzione dei tassi di rendimento dei titoli di Stato nei quali è investito il patrimonio lasciato da Demetrio Zaccaria. E ovviamente quando questi titoli, che sono sempre, certo, stati investiti con sicurezza, vengono a scadenza, naturalmente non si sa più come impostare il reinvestimento. Ecco, voi avevate lanciato un'iniziativa che si chiamava Progetto Adotta un Libro, tra le varie iniziative che avete proposto. Adotta un Libro, poi ho creato in questi anni anche una specie di associazione di amici della vigna, che è rivolta non solo alle persone fisiche ma anche alle aziende, quindi anche agli enti, quindi anche alle associazioni di categoria, ma rimane questa, diciamo, sorpresa e questa amarezza degli imprenditori che dovrebbero vedere qui un fiore all'occhiello e una possibilità naturalmente anche di approfondimento, di non sentirsi, come dire, responsabilizzati verso, certo, una biblioteca, anche perché, preciso, non è la solita biblioteca che ha libri preziosi e che vive nel suo mondo astratto, ma è una biblioteca che con l'arricchimento continuo, con l'aggiornamento anche librario e con le attività è un'opportunità per educare, per formare gli operatori dei settori specifici. Senta, quindi dovrebbero vedere qui in questo centro, certo, una risorsa, diciamo, comoda e vicina anche opportunità per imparare a produrre sempre di più e sempre soprattutto meglio, per essere ancora più vincenti nella concorrenza mondiale. Benissimo, volevo solo chiederle qual è il fiore all'occhiello della biblioteca, se lei dovesse citare un volume, un libro che voi avete, e poi magari concludiamo con, dando un po' il sito internet dove trovare. Posso citare un'opera pubblicata alla fine del 400, che era un manoscritto steso all'epoca di Dante, di Pietro De Crescenti, che porta un titolo in latino, Ruralium Commodorum Opus, cioè l'opera in pratica dei vantaggi dell'agricoltura, che è il trattato medievale più importante di agronomia. Benissimo, io la devo fermare perché siamo arrivati alla fine della trasmissione. Ricordo il vostro sito internet, che mi pare sia www.lavigna.it, dove si possono avere tutte queste informazioni, tutte anche informazioni. Notizie. È un sito considerato molto qualificato, apprezzato in tutto il mondo, con accessi da molti paesi stranieri, in modo particolare dagli Stati Uniti. E lì si 14% però di consultazioni e di utilizzo anche dei nostri materiali che vengono stampati. E questo è un dato molto interessante. Allora, www.lavigna.it, e vi sono anche le indicazioni su come sostenere il centro. Grazie. Grazie, molto gentile, e buona giornata e buona attività. Mi rivolgo soprattutto agli operatori e anche agli studiosi, naturalmente. La Vigna vi aspetta. Grazie. Grazie di nuovo. Buona giornata. E concludiamo questa trasmissione con una notizia. Torna il 24 febbraio l'iniziativa M'illumino di meno, giunta alla 13ª edizione, che ha lo scopo di sensibilizzare in tema di risparmio energetico. Anche quest'anno gli organizzatori, ovvero la trasmissione di Radio 2 Caterpillar, rinnova l'invito a spegnere le piazze, le illuminazioni private e pubbliche nella sera appunto di venerdì 24 febbraio. Oltre a questo gesto però ce n'è uno in più, si aggiunge l'invito a tutti coloro che aderiscono a compiere un gesto di condivisione delle proprie risorse come appunto gesto concreto antispreco e motore di socialità. Lo spreco delle risorse è considerata infatti la più grande dispersione energetica e la condivisione può essere un modo molto efficace per contrastarla. Un esempio? Condividere l'auto con i colleghi per andare al lavoro, ad esempio, appunto, o organizzare una cena collettiva in un condominio. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.